Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. 7:48 minuti, si torna in studio, Radio Città Fujiko, il Breakfast Club di oggi, lunedì 6 maggio, apre con un appuntamento che questa sera sarà al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo. Intanto due parole, poi avremo modo di riprendere anche con contenuto più esteso e anche con le voci dei protagonisti per quanto riguarda la stagione 2024 al Torrione Jazz Club Estense. Si è conclusa questo weekend appena trascorso e l'ultimo concerto, per quanto riguarda il sabato, una nuova emozione che porta continuità già a una rassegna che ha dato diversi motivi di entusiasmo. Avremo modo di parlarne, ascoltato per voi comunque tutto quello che è il grande jazz, Ferrara Jazz Club, Bologna col Bologna Jazz Festival e anche qualche citazione al Crossroad Jazz. Ci sarà, come ben sapete, al venerdì dalle 11:30 alle 12:30. Intanto l'ultimo concerto è stata un'altra perla arrivata dal Jazz Club Estense. Torniamo però ai contenuti per un Last Minute che ci accompagna alla prima serata dedicata al Focus Norge, che è un po' una ripresa curata da Luca Vitali che già abbiamo sentito, ma per la serata, come ho detto, alle 20:30 con Signe Emmeluth e il suo progetto Banshee. Lei saxofonista, produttrice, interprete e alla composizione elettronica, con una formazione molto importante. Lei di origine danese è uno dei fulcri del nuovo jazz norvegese attraverso i suoi Emmeluth Anhiba, il duo Owl e le collaborazioni con Trondheim Jazz Orchestra, Space Music Ensemble e Skarvo Skule Korps tra gli altri. Il nome del progetto Banshee si riferisce al mito, a una creatura mitologica le cui grida e lamenti sono portatrici, insomma, di sventura, se vogliamo, di distruzione. Per Emmeluth, per questa interprete, però, il personaggio qui descritto non è necessariamente inteso come qualcosa di spaventoso, ma piuttosto una dichiarazione che il tempo vola e vivere la vita come possiamo pensare di aver modo di percorso finché esistiamo. Cosa ci siamo lasciati alle spalle? Siamo presenti? Cosa abbiamo voglia di sperimentare, di conoscere? Beh, a proposito di sperimentare, direi proprio che con Angelica la possibilità c'è, con un ascolto che alza l'asticella, come dico sempre, per la curiosità e anche per conoscere nuove realtà musicali. Ne abbiamo già parlato con Luca Vitali, ma essendo questa sera ho voluto portare nel Last Minute il frangente di conversazione che dà presentazione al concerto di questa sera al Centro di Ricerca Musicale San Leonardo. Allora, diciamo che intanto per questa 34esima edizione abbiamo ripreso il titolo Focus Norge dall'edizione 2011, in cui avevamo dedicato una 3 giorni intera alla scena musicale norvegese, e quest'anno cominciamo con i norvegesi lunedì 6 maggio con la sassofonista e compositrice Signe Emmeluth, una giovane musicista di classe 1992 che presenterà il suo progetto Banshee in prima italiana. Il nome Banshee si ispira al misticismo irlandese, alla figura mitica delle grida che preannunciano morte e dolore. È frutto di una commissione di un prestigioso festival che è nato in Norvegia, e Vossa Jazz, e questa commissione del 2022. La sua visione, la visione di Signe è un po' più, come dire, positiva, è meno tragica. Meno tragica della situazione, pertanto si interroga maggiormente su cosa vogliamo sperimentare ora e cosa lasceremo dietro di noi, insomma. Con lei ci sarà un ensemble tutto al femminile, una sorta di all-star norvegese costituita da Guoste Tumulaite al pianoforte, Maya Racci alla voce, Anne Eftelnot Noller Anderson alla tromba, Eida Mobeck alla tuba, Jennifer Torrens alle percussioni, e poi avremo invece Magnus Nergård, perché Guro Moe purtroppo era impegnata e quindi non ci sarà al basso e al contrabbasso.

un piede nel mito e l'altro nel futuro, per dare una iconica immagine di quello che può essere l'ascolto per la serata odierna, 20:30, Teatro San Leonardo, centro di ricerca musicale. Vi ho promesso anche qualche assaggio per quanto riguarda quello che è stato Altorione con la formazione di Dejan Terzic. Il disco, intanto, Silent Dancer, che ho preso per il progetto Axiom, che vede protagonisti Chris Pidd al sax tenore, che ha portato in maniera inattesa, almeno per quanto mi riguarda, una parte lirica veramente importante, Matt Penman al contrabbasso, una forza con un timing molto particolare e molto descrittivo, l'espressione, sì, di espressione si parla, alla batteria estremamente originale del frontman Dejan Terzic, di origine bosniaca, ha dato la sensazione e l'emozione di un tempo dritto, ecco, se vogliamo anche così abbastanza atipico per quanto riguarda il modern jazz, ma allo stesso modo molto molto narrato, oltre che preciso e con una fantasia unica. Silent Dancer, vi propongo questo brano velocemente, per così dire, ascoltato per voi. Torniamo tra pochissimo con la rassegna stampa culturale e i magazine, come ogni lunedì dopo la pubblicità. Buon ascolto. We'll be right back.